per i mixtape volume 1, Overseer Army, SMS, Round Fire, e l'alleanza sotterranea. Là fuori ho visto troppe storie, la vita di chi vive per le glorie. Chi le scrive, chi decide di stamparle su memorie. E chi decide tutto per gli altri pure da solo. Chi con gli altri prende il volo e se ne fosse di loro. E sono le luci presse in fotogrammi telematici. Mamme con le compresse, coi figli già molto pratici. È la legge del marketing, stringe lacci emostatici. Si lobby di chi sente, ne contrasterebbe immagini. E man, sono lontani da me per una mia scelta. Lontane da tutti quelli che vedono che è una merda. Lontano dal loro mondo, nella nostra dimensione, tra milioni di persone che credono alla finzione. E Dio, ti invito, sali a bordo, Overkill Army è il porto. Passiamo sotto e mandiamo il sistema in corto. E me ne fotto di chi giudica e scopa bambini in tunica. Chi predica e scomunica, e comunque questa è l'ultima. L'ultima volta che provo a trovarci un senso. L'ultimo mio desiderio prima che il mondo sia spento. È l'unica soluzione per sfondare questa porta. E se l'avranno vinta sarà l'ultima volta. Beppe, porca madre. È come avere del tritolo incastrato dentro al tuo bini. Innescato sorpresa e dedicato a sti cretini. Bambini, più vecchi con vecchi orecchini. Indovini, parlo di cake e live, di porti cucini. Tu che hai scritto rap style sul desktop del tuo PC nuovo. Che fai l'alternativo col libro di Fabio Polo. Che su YouTube commenti la scena in Costa d'Avorio. E poi qua tiri sul naso e ti supporti da solo. Ma noi quello sappiamo, si salva solo una certa ristretta cerchia di merda, aria storta senza richiesta l'offerta. È una ferita inferta su una visione distorta. Udacci carta bianca, ribaltiamo questa merda. E questa vaffanculo, giuro che è l'ultima volta che provo ad amarla, abbracciarla prima che è morta. Overkill e fermenti, la fusione che vi porta. Una boccata d'aria sana in una cassa toracica morta. L'ultima volta che provo a trovarci un senso. L'ultimo mio desiderio prima che il mondo sia spento. È l'unica soluzione per sfondare questa porta. E se l'avranno vinta sarà l'ultima volta. L'ultima volta staremo dietro una porta, con tutta dietro una scorta di gente ancora sconvolta. E sarà l'ora di chi pompa il vero, non di chi non vale zero. Sarà il nostro impero per davvero, brutto scemo. Sono Fett, chi cazzo ti credevi ti parlasse? Mica il divo del giornale, sono al fondo della classe. Ma se casse vi ricoprono i suoni, rapper falliti troveranno poi vestiti in mezzo a sangue di diti. E quelli che ho visto sempre parlare di roba buona sono andati in ferie in coma oppure in overdose. Ancora è qua, la verità è tagliata con la bamba di Brivere. Tra puttane con il cazzo, effetti magici sul set, lontani da me. Forse anni luce digitali come criteri contrari a quadri quadrimensionali. Quando chiuderò la porta alle mie spalle poco importa, perché se l'avrete vinta sarà l'ultima volta.